sono ricco. Leggo nella Bibbia, nel Salmo 119, versetto 14. Gioisco seguendo le tue testimonianze, come se possedessi tutte le ricchezze. Molte persone che conosco pensano che i cristiani vivano in qualche modo una vita fatta solo di rinunce e sofferenze. Per molti il credente è una persona con tendenze autolesionistiche, che non sa godersi i piaceri della vita e in qualche modo spreca la propria esistenza cercando di mettere in pratica insegnamenti di un vecchio libro oscuro e incomprensibile, la Bibbia. Questo stereotipo non ha niente a che vedere con la realtà. Infatti chi ha sperimentato nella sua vita l'incontro con Gesù sa di essersi appropriato del bene più prezioso che si possa avere, proprio come descritto in questo verso. Ciò che le persone faticano a capire è che il cristiano non considera un peso insopportabile vivere secondo la parola di Dio, ma lo considera un privilegio e una gioia. Infatti, a dispetto di ciò che si crede, Dio non vuole certo impedire agli uomini di essere felici, anzi, semmai è vero il contrario. Molti conoscono e citano l'aforisma attribuito a George Bernard Shaw, scrittore irlandese del secolo scorso, secondo cui le cose più belle della vita o sono immorali, o sono illegali, oppure fanno ingrassare. Al di là dell'ironia di questa frase, è comunque vero che la maggioranza delle persone è convinta che la Bibbia chiami peccato tutte le cose più belle e piacevoli per l'uomo. Ma questo non è assolutamente vero. La Bibbia infatti afferma il contrario. Dio ha creato la vita e quindi conosce quali sono le cose di cui l'uomo ha bisogno. Chi più del progettista conosce il modo migliore in cui la sua creazione dovrebbe funzionare? Ad esempio, l'uomo pensa che spendendo la propria vita per accumulare ricchezze si realizzerà ed è disposto a tutto pur di ottenerle. Ma Dio ha previsto che l'uomo sarà più felice se avrà le cose che gli sono necessarie, lavorando per vivere, ma non vivendo per lavorare. Oppure gli uomini credono di aver bisogno solo di sesso, come se fosse un esercizio ginnico. Ma Dio ha previsto che il sesso vissuto all'interno di una coppia in cui ci sia amore è davvero migliore ed è ciò che l'uomo necessita. Nella mia vita ho visto che con il passare del tempo alcune cose che mi sembravano particolarmente utili e alle quali non avrei mai pensato di poter rinunciare hanno perso gradualmente interesse. Altre sono diventate molto importanti, ma soprattutto ho imparato che seguendo le istruzioni del progettista il progetto uomo funziona davvero bene e l'uomo può davvero essere felice. La vita cristiana è una vita trasformata da Dio, una vita che Dio modella affinché sempre di più sia vissuta nel modo in cui Lui ha previsto che debba essere vissuta. Come potrebbe essere una vita infelice? Mi guardo intorno e vedo piuttosto che infelici sono coloro che cercano di soddisfare i propri bisogni senza mai riuscirci davvero. Inseguono per tutta la vita una ricchezza che però non soddisferà mai i loro bisogni interiori. E ogni tanto qualcuno che secondo i criteri comuni dovrebbe essere ricco e felice finisce addirittura per suicidarsi e nessuno capisce il perché. Vi assicuro che la vita cristiana non è una vita castrata come molti credono, ma è una vita vissuta pienamente, una vita in cui ogni giorno viene speso con entusiasmo, sapendo che Dio vuole compiere un'opera in noi. La mia vita ha uno scopo, quello di onorare Dio in ogni cosa che faccio. Non so godermi la vita? Vi assicuro che al contrario, la vita per me è davvero meravigliosa, perché avendo già ogni ricchezza, non ho più bisogno di correre dietro al vento per raccogliere solo degli spiccioli.